pietà, signori miei, oh, pietà, pietà, pietà, pietà di me, pietà. Oh, ragione, a voi a lei, a voi a lei. Ma, il delitto mio non è, mio non è. E parola me potenza, l'innocenza mi rubo, l'innocenza mi rubo. Don Elvira, combattite, combattite. Voi capite come andò, voi capite, voi capite, voi capite come andò. Di Masetto non so nulla, nulla, nulla, nulla, nulla. Per dire a questa fanciulla è un'orretta, circuncirca, e con lei girando vo, e con lei girando vo. A voi signore, non dico niente, certo ti vuole, certo accidente, di fuori chiaro, di dentro scuro, non c'è riparo, la porta, il muro, io me ne vo da quel lato, poi qui celato, da far si sa, oh si sa. Ma si io sapeva, fuggio per qua, fuggio per qua, fuggio per qua. Ferma, perfido, ferma! Il birba l'ali ai piedi. D'acqua d'arte si sottrasse l'eliquo. Amici miei, dopo eccessi sì enormi, dubitar non possiam che Don Giovanni non sia l'empio uccisore del padre di Don Anna. In questa casa per poche ore fermatevi, un ricorso vo fare a chi si deve, e in pochi istanti vendicarvi prometto. Così vuole dovere.